Pulcinella e Colombina, stanchi di essere appesi per la testa a un filo, decidono di abbandonare il gran teatro di marionette, diretto da Fernando Malvasia. Fuggiti dal paese di Te lo domando, le tre marionette vanno incontro alla vita, senza fili, si intende. Radio Città Fujiko presenta Marionette in libertà. Massimo Vitali legge Gianni Rodari. Capitolo 9. Avventura di Arlecchino, ferroviere, ma per pochino. Arlecchino scappò che scappò che scappò, che infine alla stazione si rifugiò. Provò a prendere il diretto, ma non ha i soldi per il biglietto. Provò a prendere l'accelerato, ma senza il biglietto salire è vietato. In coda a un merci c'era un vagone tutto pieno di carbone. Arlecchino di soppiatto saltò sul carro, chiù, come un gatto. Mau! E per far perdere ogni traccia, si tinse di nero le mani e la faccia. Ho fatto in tempo giusto a salire, ora il treno può partire. Ma per dannata coincidenza, quello non era un treno in partenza. Era arrivato adesso, per ripartire il giorno appresso. E aspetta ancora un po', e l'Arlecchino, pensa te, si addormentò. E sul più bello del pisolino gli dà la sveglia il capofacchino. Sveglia, sveglia, oh, sveglia, sveglia. Siamo già stanchi, egregio compare? Qua c'è il carbone da scaricare. Tra sé borbotta il nostro artista. Non sono un facchino, sono un turista. Ma per non farsi cacciare dal treno, si mise al lavoro in un baleno. La pala pesava oltre il segno per le sue deboli braccia di legno. Ma Arlecchino non ci badava e a occhi aperti intanto sognava. Eccomi dunque, ferroviere! Oh, ma che bel nobile mestiere! Ma sempre facchino non resterò e frenatore diventerò. E da frenatore a bigliettario. E il passo non è certo straordinario. Da bigliettaio mi farò onore ed eccomi presto controllore. Con tre righe sul berretto sarò un capotreno così perfetto che certo, prima di andare in pensione, sarò promosso capostazione. E a questo punto, oh, caso atroce, si mise a pensare ad alta voce e scordando ogni prudenza gridò: in carrozza, signori, partenza! In sala d'aspetto stava aspettando, indovinate, il sor Fernando. A quella voce balza in pie: caro Arlecchino, tu parti con me! Corre all'ultimo vagone, vede un fantasma di carbone. Ti conosco, mascherina! Va a consolare Colombina! E lo ficca in 4 e 48 nella tasca del panciotto. Figuratevi, in quel taschino, quando la bella vide Arlecchino. Oh, come sei nero! Ma che ti è successo? Per imbiancarti ci vorrà il gesso! Ma tante lacrime versò che la faccia gli lavò. Anche Arlecchino lacrimava. E le mani ci si lavava. Don Fernando Malvasia era al colmo dell'allegria. Non c'è due senza tre, Pulcinella, ora tocca a te.